e musica degna. Prima ti bacio e dopo ti legna. Vuoi giorni grigi? Scrivi a Gigi. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Oggi già. Fatti un caffè, ma usa la moca. Gigi D'Agostino, reparto pelle d'oca. Il cammino di Gigi D'Agostino, una fragranza per l'ambiente. Gran parte dei nostri sogni li viviamo con assai maggiore intensità della nostra esistenza da svegli. Hermann Hesse. Sto Stanotte ho fatto dei sogni che mi sembravano veri. E anch'io. Adesso infatti ho fatto un sogno di quelli strani. Guardavo un cielo pieno di mani, mani che cercano di costruire un mondo nuovo che possa unire, mani che pensano, che vogliono dire che non sognavo nel mio dormire, ma che era un sogno di quelli strani che mi donava il mio domani. Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Quell'attività che si ritiene immune dalla pubblicità, prima o poi si ritrova immune da ogni attività. Taradatta. Ciao, sono Gigi D'Agostino e questo è il mio cammino. Si sente? Dai un po' questa cassa. D'Agostino è lento, violento. Stiamo percorrendo cammino di Gigi D'Agostino. Benvenuti. Benvenuti nel mondo che non c'è. Sabato 27 gennaio 2007, Gigi D'Agostino suona a Roma, discoteca Palladium, Trevignano Romano. Ci vediamo lì, con le musiche e le storie suonate da me. Dalle piedi polo da solo con la click, faccio singolare hip hop, fai Anya, Marco Chip, Johnny Jefferson da Londra, della jam, e con i ragazzoni da Rema e Quinta Dan. A colpi di macchetta si esce dalla giungla, a colpi di macchetta si esce dalla giungla, a colpi di macchetta si esce dalla giungla, a colpi di macchetta si esce dalla giungla.

Grazie alla musica, le passioni godono di se stesse. Friedrich Nietzsche.

Come scopriamo frequentemente a nostre spese quando ce ne siamo fatti dissuadere da affermazioni plausibili o da azioni studiate. William Hazlitt. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Camminatori, incamminati, uomini, donne, bambini e neonati. Per oggi ci fermiamo, stringiamoci la mano.